Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo rientrati noi di 451 Intersezione dopo la splendida puntata di ieri notte condotta dal compagno nonché amico Max Macchia, che saluto da queste frequenze, con 451 frammenti sonori. Ieri appunto puntata interessantissima tra rumorismo e acque varie, acque naturali, frizzanti e di sorgente, puntata molto interessante che ricordo anche ha lanciato questo nuovo progetto, di questo nuovo ambito di Futuri Rumori, che raccoglie materiali musicali di qualsiasi tipo, di, in termini di autoproduzione, materiali che sono stati già mandati in onda all'interno di 451 frammenti sonori. Se siete interessati a mandare demo legati ovviamente alla sperimentazione, alla ricerca, all'avanguardia, potete visitare il nostro blog No Blog, dove troverete sia lo spazio di 451 frammenti sonori, che va in onda ogni mercoledì dalle 23 all'1 di notte circa sulle frequenze di Radio Città Fujiko, e anche lo spazio di 451 intersezioni, cioè la puntata e la trasmissione di stasera, sempre sullo stesso blog 451frammentisonori.noblogs.org. Lì troverete ovviamente l'informazione anche per poter mandare materiali in un apposito spazio dedicato appunto a Futuri Rumori, sia per riascoltare le puntate di 451 intersezioni e 451 frammenti sonori in questo network collettivo 451. E dunque 451 intersezioni riparte come ogni giovedì notte. La scorsa puntata era dedicata, diciamo, al clima pesantissimo che stiamo vivendo in questi giorni dopo gli attentati, dopo le stragi di Parigi, e avevamo chiamato la puntata dello scorso giovedì terrore e controllo, proprio in termini di legami legati al controllo sociale, mediatico, informativo, ma anche del terrore che stanno continuando a seminare un po' dappertutto nel nostro caro simpatico Occidente, nel nostro bel sistema così tanto propagandato come democratico, nell'ottica appunto di questa dicotomia tra amici e nemici, anzi sei con me o contro di me. Dunque il grande mostro adesso è l'ISIS, che effettivamente è una realtà politica e religiosa praticamente nazista, un nuovo nazismo del terzo millennio, però chiaramente l'Occidente ci gioca, e non solo l'Occidente, varie potenze connesse ovviamente ai poteri occidentali. Avevamo dedicato, chiaramente sentivo la necessità di collegarmi a tutto quello che stava succedendo, creando una tematica legata appunto al terrore e al controllo, portando avanti una sorta di racconto sonoro in questo percorso legato a quest'idea. Stasera non ci scolleghiamo in realtà moltissimo rispetto a questo tema, perché affronteremo un tema che comunque è connesso a questo clima generalizzato, ma in realtà è una puntata più musicale nel senso più stretto del termine. Stasera il tema di questa serata, che vedrà ancora un percorso, un sentiero sonoro anche stasera, è dedicata e viene denominata scomposizione e spettralità. Una volta si diceva uno spettro si aggira in Europa, appunto il comunismo, lo spettro ora è tutt'altro, lo spettro sembra questa fantomatica, questa propagandata possibile o addirittura già in essere guerra, terza guerra mondiale. In realtà le voci sono molto contraddittorie, ancora non siamo dentro questo questa realtà di guerra concreta, insomma non ci sono ancora eserciti che si scontrano su terreni, e anche se ci sono già bombardamenti, attentati, in realtà la guerra c'è in tutti i paesi che adesso sono nell'occhio del ciclone, tutto il Medio Oriente, ma tutte le famose nazioni che sono state attraversate dalle primavere arabe, che erano ricche di potenzialità anche rivoluzionarie. Purtroppo tutto quello che è avvenuto attraverso dittatori o sistemi dittatoriali vari insediati dalle nostre potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti, ma anche nazioni come Francia e Inghilterra, la stessa Italia, Europa, hanno condizionato chiaramente la crescita anche di questi movimenti estremisti islamici che stanno massacrando popolazioni. Ricordiamo soltanto tra Siria, Iraq, la popolazione curda, che è l'unica a combattere, ha un'idea chiaramente comunista e marxista anche dal punto di vista politico e della possibile organizzazione di un possibile stato del Kurdistan, e abbiamo altre popolazioni come gli stessi yazidi o altre formazioni che cercano di combattere sul territorio questi veri e propri nazisti del terzo millennio. In realtà appunto l'Occidente gioca molto sporco con traffico d'armi. Non ci andiamo ad addentrare troppo nel tema, perché potrei parlare anche mezz'ora per tutte le cose che ho da dire, ma semplicemente anche per riflessioni e considerazioni rispetto al momento, perché chiaramente mi sta attraversando, e credo anche moltissime persone che ascoltano Radio Città Fujiko, in generale la popolazione italiana, che se molta di questa popolazione viene bombardata a livello massivo da media, non soltanto mainstream, ma anche attraverso internet, attraverso tutti i canali possibili. C'è già un clima molto pesante che si nota alle volte anche effettivamente in alcune fermate dell'autobus. Faccio questo esempio simpatico, poi neanche tanto. Io con questo periodo mi sto facendo crescere molto la barba, ma già da un po' qualcuno mi guardava col cappello tutto imbacuccato con questa barba nera. Qualcuno secondo me mi ha guardato tipo, non è che qualcuno legato a qualche possibile gruppo attentatore, anche perché dopo gli arresti che sono avvenuti a Casalecchio c'è un po' il clima anche qua a Bologna del sospetto, del guardarsi intorno, e sto notando anche molte più forze dell'ordine che girano per strada, proprio nell'ottica del terrore e controllo della puntata precedente. Ma entrando più dentro lo specifico di stasera, perché scomposizioni e spettralità? Appunto, la spettralità è un aspetto abbastanza presente in situazioni di questo tipo, in queste fasi storiche. C'è questa dimensione appunto spettrale, una dimensione strana che non si riesce bene a percepire, e la scomposizione che si legherà anche sul piano musicale, perché stasera affronteremo varie formazioni che si muovono in un jazz astratto che si interseca molto anche con la musica elettronica, ma estremamente decomposto e scomposto nel senso proprio della composizione classica. In questo ci colleghiamo all'idea della scomposizione anche all'interno della società europea, della società capitalista, la scomposizione di classe, la scomposizione di settori sociali che vengono divisi, segmentati, allontanati l'uno dall'altro proprio per creare quella divisione che permette poi al potere e soprattutto alle classi dominanti. Una volta si definivano padroni, venivano denominati, adesso un po' datori di lavoro, i ricchi, i poveri, non sono categorie chiaramente marxiane, e in questo senso la scomposizione è stato un processo che è stato adottato principalmente in questo paese, ma anche in molti paesi europei, dagli anni 70-80 in poi, per appunto distruggere la dimensione della fabbrica massa e costruire luoghi di lavoro spezzettati, segmentati, nuovi lavori, precarizzazione il più possibile e più totale. Vediamo il Job Act di Renzi che porta al massimo quest'idea, e dunque un controllo molto più consolidato nei confronti appunto di possibili ribellioni e rivoluzioni. In questo entra il discorso anche del terrore del controllo, che in Francia aveva avuto i suoi bei risultati, cioè l'annullamento della possibilità di manifestazioni, scioperi, la possibilità di assembramenti in piazza, più di 2-3 persone, ci sono stati già dei casi in cui la polizia è intervenuta, scontri e repressioni nei confronti di una manifestazione di compagni a Parigi in solidarietà dei prof e di tutte le popolazioni che stanno ancora ammassate in condizioni disumane in Francia e ai confini. Tutto ciò rientra perfettamente anche nel collegamento musicale, in queste scomposizioni che troveremo in questi gruppi che tendono a costruire i progetti musicali che non hanno dei veri e propri riferimenti nella struttura compositiva, ma vengono deragliati, decomposti e decostruiti. E dato che ho parlato già troppo, entriamo nel merito, dunque entriamo nella materia sonora, e apriamo con un progetto che purtroppo è durato poco, anche in realtà è molto interessante, almeno dagli album che ho ascoltato. Si tratta di un progetto che è stato prodotto dalla Rune Gramofor, un'etichetta molto interessante legata appunto ai paesi scandinavi. Andiamo a trovare infatti tre musicisti che hanno costruito questo progetto. Si tratta di Steik Storenken, che oltretutto è presente anche nel progetto di Super Silent che troveremo più avanti, il batterista Thomas Sironen, e poi troviamo anche Jan Kranstenten, che fa parte di questo progetto denominato, un nome un po' complesso, nel senso che rischio di sbagliarlo, speriamo di no, Amcrash, no, non è poi tanto così complesso. Questi tre musicisti, tastierista, batterista e un altro tastierista, hanno fatto parte di questo progetto che ha fatto uscire il primo album nel 2006, hanno fatto uscire altri due album tra il 2008 e il 2011, poi hanno chiuso i battenti portando avanti, diciamo, dei progetti altri e anche dei progetti solistici. E questo progetto si muove tra un jazz elettronico estremamente delirante, decomposto e strutturato in maniera stranissima, dove l'aspetto elettroacustico si mischia appunto all'aspetto elettronico, e dunque musicisti che suonano tastiere e batterie ma che vengono poi manipolati a livello elettronico e digitale a costruire una sorta di percorso sonoro assolutamente originale in questo senso. Peccato che non abbiano portato avanti questo tipo di progettualità, di questo jazz astratto elettronico piuttosto frenetico e ridondante, ma anche appunto senza punti di riferimento. Ci andiamo a scontare dunque dal disco che è proprio stato il disco di esordio di questa formazione a livello di produzione, Horns Waggle, uscito nel 2006 per la Rune Gramofon. Buon ascolto con Amcrash. E siamo rientrati con queste ultime note dei grandi Am Crush. Ricordiamo ancora l'album Hornswoggle, uscito nel 2006 per l'etichetta Rune Grammophon, un disco sicuramente molto interessante, come avrete sentito da queste due tracce piuttosto deliranti, soprattutto la seconda, che costruisce un'atmosfera, per me almeno, estremamente spettrale nella costruzione, malata, disturbata. E da questa formazione norvegese andiamo a trovare un'altra formazione, in realtà anch'essa legata alla Norvegia, anche se composta da più elementi, rimanendo nel tema della scomposizione e della spettralità. In questo senso, formazione che è già passata diverse volte su 451, anche in passato, formazione che è stata considerata da molti come uno dei progetti più interessanti della scena del jazz elettronico, oltretutto anche legato per linguaggio musicale anche a un certo free, formazione che ha collaborato anche con molti artisti dell'elettronica più pura, più strettamente pura, formazione costituita da Arve Henriksen, che è appunto anche un elemento della formazione Amcrash, e in più anche Helge Steen, Jarla Vamberstad e Stalke Storkolkelen. I nomi sono terrificanti, appunto essendo nomi scandinavi difficilmente anche pronunciabili, forse mi dovevo preparare meglio prima, ma purtroppo dovete prendere quello che passa al convento, al massimo mi criticate via blog 451frammentisonori.noblogs.org, così se volete lamentarvi della mia incompetenza in termini di lingue lo accetto volentieri, consigli e suggerimenti per evitare brutte figure nella nomina di questi nomi. Formazione che non vi ho ancora presentato, si tratta di Super Silent, appunto, che ha avuto base in Norvegia, ma non solo, anche loro hanno fatto uscire molti album per la Rune Grammophon, un altro elemento appunto di un jazz spettrale, astratto, scuro, anche inquietante nella sua costruzione e anche nella sua decostruzione e decomposizione. Anche questo termine scomposizione, decomposizione, si aggancia molto bene, perché in realtà, come dicevo in precedenza, collegandomi all'idea della scomposizione a livello proprio di notazione musicale, di costruzione compositiva, ci possiamo collegare appunto anche alla scomposizione di classe, alla scomposizione delle classi subalterne. In realtà è bello anche giocare sul termine decomposizione, perché c'è anche un po' di decomposizione in questo discorso, sia politico che musicale, musicale anche in senso buono, creativo, sperimentale, avanguardistico, un po' meno per quell'aspetto politico. Se ci fosse un'idea, diciamo, anche avanguardista e rivoluzionaria della decomposizione delle classi, sarebbe interessante, potrebbe essere uno strumento appunto di lancio, chissà, rivoluzionario, di rottura del capitale che non muore mai. Comunque, andando oltre questo, andiamo dentro la materia, dentro l'universo materico dei Super Silent, con l'ultimissimo album uscito alla fine del 2014, intitolato 12, il numero chiaramente, anche perché i Super Silent hanno iniziato dal 1998 con 1-3 e poi sono andati avanti, tutti gli album hanno una notazione numerica, dunque dal primo album, che comprendeva il numero 1-2-3, si è andate poi via via col 4-5-6-7-8-9 e via di seguito per arrivare al 12 della fine 2014. Disco molto molto bello, costruito molto bene a livello di sperimentazione sonora, ma anche a livello di scomposizione, di decostruzione musicale. L'aspetto spettrale è molto molto presente come appunto dimensione presente e non presente dentro le composizioni musicali, dentro l'intero album. E adesso ci andiamo a ascoltare due tracce di questo album molto molto bello, lo ricordo ancora, 12 dei Super Silent, e continuiamo dunque il nostro percorso, il nostro sentiero sonoro dentro scomposizioni e spettralità. Thank you. dalle terre scandinave, da Super Silent, da 12 2014, ci addentriamo dentro la materia sonora australiana. Spesso nelle ultime puntate di 451 intersezioni l'Australia è comparsa con vari progetti e autori anche molto differenti tra loro rispetto a linguaggi e a sonorità e a rumorismi. Ora ci andiamo a riscoprire per l'ennesima volta, potremmo dire, una formazione che ha attraversato spesso 451, però ha fatto uscire l'ultimo album proprio da poco tempo, che è uno splendido lavoro. Continuano a mantenersi estremamente ricchi di creatività e di ricerca ancora in ex, dunque parliamo di Venex, costituiti da Chris Abrams al piano, Tony Buck alla batteria e Lloyd Swanton al basso elettrico e contrabbasso. Formazione che è nata addirittura nel 1988, primo album 89, dunque ormai sulla scena da più di 25 anni, moltissimi album creati. Per coloro che non lo conoscessero, è una formazione che si muove tra un jazz molto ipnotico, legato ovviamente con forte tributo al jazz elettrico degli anni 70, anche a un certo tipo di jazz rock, un aspetto psichedelico, ma anche rispetto anche a un minimalismo che loro riportano nelle loro costruzioni tra jazz, elettronica, elettroacustica e appunto minimalismo. L'ultimo album che hanno fatto uscire proprio da pochissimo, uscito nel 2015, Vertigo, ripercorre come al solito delle tracce uniche di circa un'ora, che prosegue in questo flusso, in questo aspetto dronico, ipnotico, muovendosi va dentro delle lande desolate in alcuni momenti, con dei richiami estremamente suggestivi a un certo jazz appunto psichedelico degli anni 70, di matrice non solo davisiana, e anche in alcuni momenti attraversano anche certe atmosfere molto legate a aspetti ambientali e dronici, sicuramente tipici anche del loro linguaggio, della loro scomposizione musicale. Andiamoci a sentire ovviamente soltanto un frammento di questo percorso sonoro, che appunto dura circa un'ora, ma merita veramente, perché ci si addentra dentro una dimensione unica e in alcuni momenti appunto attraversa anche un certo tipo di spettralità, che stasera è una delle caratteristiche fondamentali del nostro sentiero sonoro, oltre che appunto la decostruzione, la decomposizione, la scomposizione. Venex è dunque arrivata già al 2015, questo progetto collettivo, e nel 2015 speriamo che continui ancora a produrre materiali interessanti. Il disco uscito, ricordiamolo ancora, anche per Fish of Milk, hanno fatto uscire i loro album spesso per questa etichetta, ma anche per altre etichette nel corso della loro carriera ultra ventennale. Andiamoci dunque a sentire, ad immergersi dentro l'atmosfera di Vertigo, Venex.